comunica fra tutte le nazioni. Viva Guglielmo Marconi, è un miracolo per le persone. Viva Guglielmo Marconi, è un miracolo per l'umanità. Radio Azioni. Contributi audio da Cosenza e dal mondo. Ogni domenica alle 16. Su Radio Ciroma 105.7. Materia sonora. Cura. Racconti paralleli nasce quasi per caso. Lo scrittore è mio parente, mio zio, che scrive da un bel po' di tempo. Paralleli era già presente, diciamo così, una sorta di peruranio di idee. I racconti sono tanti, noi ne abbiamo scelti per una prima uscita solo 5. Si chiama Racconti Paralleli perché sostanzialmente sono racconti molto differenti fra di loro, anche ambientati in periodi differenti, ma sostanzialmente sono uniti, sono paralleli per alcune tematiche di fondo che, diciamo così, scorrono come parallele all'interno di ognuno di questi. Tematiche come una piccola denuncia sociale, oppure tematiche come la condizione del piccolo borghese, tematiche come lo scontro con figure superiori, o tematiche come il confronto con la religione. Una sorta di racconti trasversali su una miriade di tematiche differenti. La cosa che più mi piace dei racconti di Paolo è che sembrano come delle sorte di diapositive scattate nel mezzo di una situazione. Difficilmente sono racconti con un'introduzione, una vera e propria conclusione. Sono come dei flash su una realtà che già in movimento, che già esiste. Sono estremamente visuali come racconti, riescono a evocare molto facilmente sensazioni tattili, odori, non solo visivamente degli squarci di queste realtà, e in effetti è una cifra, diciamo così, molto rappresentativa della produzione di Paolo Cortesi, dello scrittore. Quasi tutto quello che scrive ha questo fascino multisensoriale, ed è una cosa davvero, per me come attore è molto facile riuscire a interpretare cose del genere, ed è molto senti proprio le parole trasportano la tua fantasia, ed è molto divertente, anche molto molto stimolante. La forma letteraria dei racconti è molto varia. Ed questa è una cosa che apprezzo molto di questi cinque racconti e in generale di tutta la produzione di racconti paralleli. La capacità dello scrittore di variare in maniera molto consistente e molto dinamica il registro letterario di quello registro utilizzato. Quindi sono racconti che anche nelle stesse fasi, non solo nei dialoghi, ma anche nelle stesse fasi narrative, descrittive, alterano facilmente un linguaggio da strada, un linguaggio invece più preciso, più formale, e questo lo trovo un grandissimo dono dello scrittore. E anche racconti che in molti casi si fanno forti di una ricerca anche storiografica del linguaggio dell'epoca, in modo che la stessa narrazione, non solo i dialoghi dei personaggi, la stessa narrazione cerchi di emulare il linguaggio o le descrizioni che avrebbe fatto uno scrittore con il linguaggio proprio dell'epoca. E questo è molto divertente, anche quando stai narrando, non solo quando interpreti i dialoghi di un racconto, è come se lo stesso narratore che interpreti fosse un narratore magari di 100, di 200 anni fa. Alcuni racconti sono ambientati in un'Italia del dopoguerra, altri in un'Italia quasi ottocentesca, stile Malavoglio, cose del genere. Quindi è molto divertente questo, è molto stimolante, molto ricca come cosa. La scelta della distribuzione libera in rete, la possibilità di permettere a chiunque non solo di ascoltare, ma anche di scaricare tramite ArcoIris TV, che è stata la TV online che ha permesso tutto questo e ha facilitato enormemente la gestione di tutto quanto riguarda diritti, eccetera, eccetera, è stata una scelta a priori molto definita. Anche se personalmente non riceviamo un effettivo introito per la creazione di questi racconti, la possibilità e la certezza di sapere che questi racconti possono arrivare a chiunque senza il pagamento di nessun prezzo, di nessuno scambio commerciale, è una cosa molto, molto bella. Io confido molto che in un futuro, spero prossimo, la gestione del copyright, del diritto d'autore, un po' sull'onda di alcuni esperimenti statunitensi, possa diventare qualcosa a favore della circolazione delle idee e non un ostacolo che mina non solo gli interessi degli artisti, ma anche la circolazione delle loro stesse idee, del loro stesso lavoro. Molti artisti, anche di calibro internazionale, hanno capito quanto una gestione troppo ferrea, troppo basata sulle catene del diritto d'autore, mina la base, il loro stesso successo creativo. E quindi questa è una cosa molto bella, vedere come una circolazione libera delle idee non solo non vada a discapito dell'autore, del creatore, ma anzi lo aiuti a far conoscere il suo lavoro e anche dal punto di vista economico possa sostenerlo. Questa è una cosa, una sorta di ossimoro, diciamo così, del business, dello show business, ma è davvero molto, molto bello. Spero davvero che in un futuro sia il lavoro di tutti quanti, sia di una radio, di una TV, di una casa di produzione, sia reso più facile da una gestione più umana, razionale e a favore della cultura del concetto di diritto d'autore e di copyright. La mia attenzione attività lavorativa in questo momento, beh, io nasco, diciamo così, e mi sono formato come attore, e quindi ci sono stati ogni tanto, beh, la vita dell'attore è molto varia, molto imprevedibile, ma qualche impegno ogni tanto in TV o cinema. Per il momento un grande impegno è stato quello teatrale, con lo spettacolo che trovate sul sito marcocortesi.com, marco-cortesi.com per essere precisi. È uno spettacolo che narra di una reale esperienza di volontariato in ex Jugoslavia, compiuta dal sottoscritto che ascoltate in questo momento. È uno spettacolo per la pace che è diventato adesso un video, anche questo visionabile gratuitamente online. E presto questo video speriamo diventi un DVD. Impegni futuri, un po' di doppiaggio c'è stato, in particolare doppiaggio nel mondo dei cartoni animati, ed è molto divertente, molto stimolante. E per il resto speriamo che il futuro riservi altri lavori gratificanti come questo, e esperienze che possano rendermi orgoglioso di quello che faccio. Questa è la cosa principale. Quindi teatro, cinema, ma sempre con un occhio anche ai valori che una produzione televisiva o cinematografica diffonde, valori dei quali si fa portavoce. Quindi speriamo di incontrarci tutti quanti, fosse anche solo online, fra le pagine del mio sito, del vostro o su questa radio. La notte prima dell'incontro con Kradar, Antonio non dormì. Non dormì mai, neppure in quello stordimento pesante che spegne la coscienza e che sembra affondare la mente in un nero senza fine. Restò sveglio, fervoroso, con dozzine di pensieri incalzanti, strani, irrefrenabili e imprevedibili, ma tutti, al loro inizio o al termine, convergevano sulla stessa domanda. Cosa vorrà da me? Questa angosciosa interrogazione subito ne portava un'altra. Come ha fatto a sapere di me? Come poteva l'uomo più ricco d'Italia sapere dell'esistenza in vita di Antonio Mosca, che faceva il fornaio a San Leo? Filiberto Kradar era un padrone. Aveva fabbriche e negozi. Aveva ville, cavalli, barche, un teatro e vigneti. Stava a Milano in un palazzo che sembrava una reggia e che era stato fotografato per la settimana Incom. A San Leo era arrivata una gran macchina americana a luci nera, con le gomme bianche. Nella piazzetta d'acciottolato ci stava appena. Si fermarono tutti a guardarla. La gente scendeva dalla bicicletta e restava a cavalcioni. Le donne uscivano dalle botteghe e anche i negozianti interrompevano la spesa e scostavano le tende di perline. Restavano sulla soglia e guardavano senza parlare. L'autista, col berretto a visiera, restò in auto. Due signori vestiti di scuro uscirono. Richiusero il portiere con un botto che pochi conoscevano. Un bambino si mise a piangere. I due entrarono nel forno di Antonio Mosca. Le donne che compravano il pane rimasero attonite. «Scusi, signore», disse un uomo con le spalle larghe e i denti radi. Si accostò ad Antonio, che stava dietro al vetro del bancone di mattonelle bianche. «Lei è il signor Antonio Mosca?» gli domandò. Mosca non rispose. Sbarrò gli occhi e restò con un filoncino in mano. Guardò implorante le donne che fissavano lui. «Scusi, parlo col signor Mosca Antonio Fuguglielmo?» «Sono io.» «Cosa volete?» rantolò il fornaio. «Devo recapitarle un invito da parte del commendator Kradar.» «Kradar? Quello che... Kradar, quello ricco...» «Il commendator Kradar», ripete l'uomo in nero. La prega di recarsi presso il suo ufficio centrale di Milano. Antonio non capiva, non udiva le parole, ma un ronzio basso da cui si staccarono solo due suoni. Kradar e Milano. L'uomo si rese conto del caos di Antonio, allora ripeté l'invito più lentamente, sillabando, come se parlasse a un bambino. Poi chiese: «Lei può venire domani a Milano?» «Ma come ci vado a Milano?» fece Antonio. «Se preferisce, l'accompagneremo noi in automobile. Partiremo domattina alle 8, va bene?» Antonio taceva, sempre col filoncino in mano e gli occhi disperati. Naturalmente le sarà rimborsata la giornata di lavoro persa e anche il disturbo. Lei sarà ospite del commendatore per tutto. «Tutto», ripeté inconsapevolmente il fornaio con la voce strozzata. «Allora, signor Mosca, va bene? Partenza domattina alle 8. La passeremo a prendere da casa.» «Ma sapete dove abito?» L'uomo in nero, per la prima volta, sorrise. Disse: «Via San Gregorio 12, vero?» Antonio annuì. Se non avesse sentito in mano la forma e il peso del filoncino di pasta dura, avrebbe pensato di stare sognando. Accompagnato dai due uomini vestiti di scuro, Antonio aveva attraversato sale di marmi e percorso corridoi lunghi e scintillanti, da molte porte aperte. Aveva visto segretari austere e uomini tristi. Aveva visto tanti quadri, scritte e mappe di città, disegni colorati, ma nella sua mente tutto si era mescolato e trasfigurato in una indistinta chiarità riverberante. Lo fecero attendere in un salottino con gonfie poltrone azzurre. Su una parete c'era la fotografia gigantesca del commendator Crader, ritratto mentre baciava la mano di Papa Giovanni XXIII. Sul tavolino, splendente come un cristallo, c'erano riviste, bottiglie, bicchieri, scatole di cioccolatini e portasigarette. Antonio osservava senza comprendere. L'uomo in nero, che lo aveva condotto là, sfogliava un giornale. Pareva fingere di essere intento a qualcosa per non curarsi di lui. Finalmente si accese una luce verde accanto alla porta e l'uomo in scuro balzò in piedi. Disse sottovoce: «Prego, mi segua.» Poi, fatti pochi passi verso una porta che stava all'estremità di un breve corridoio, parli solo quando il commendatore le fa la domanda. Parli a voce bassa perché il commendatore non sopporta le voci acute. «Permette?» E si arrestò, facendo fermare Antonio. Dalla tasca della giacca, l'uomo prese una boccetta di profumo e ne spruzzò qualche goccia sul collo di Antonio. «Scusi, ma il commendatore ha un olfatto delicatissimo.» Antonio entrò in uno studio grande, da soffitto alto, decorato con una grandiosa vetrata dietro la scrivania di mogano alla quale sedeva Crader. Questi era un uomo piccolo, calvo, grasso, con la faccia larga e lustra, gli occhiali d'oro. Si alzò dalla poltrona e porse la mano ad Antonio, che sentì nella sua delle dita piccole e grosse, un po' fredde. «Grazie, signor Mosca, di aver accettato il mio invito.» «Grazie», mormorò Antonio. Crader lo esaminò. Ad Antonio parve che lui stesse confrontando l'uomo che vedeva con quello che si era immaginato. «Fatto buon viaggio?» domandò il commendatore sorridendo. «Sì, sì, grazie. Le piace Milano, eh? Visto che città.» «Ma non saprei, ho visto poco.» «Se vuole, dopo la faccio accompagnare in un bel giro turistico per tutta la città. Vedrà che bella, anche se San Leo deve essere un prezioso paese, vero?» «Sì, deve esserci l'aria buona lassù, eh? L'aria certe volte è un po' sporchina, ma è sporca di industria, di fabbrica, di opificio, cioè di lavoro. E il lavoro è pane per tutti. Dico bene, signor Antonio?» «Sì, è lavoro.» «Dunque, caro Antonio, lei ora vuole sapere perché l'ho fatta venire qua, vero?» «Sì, non so proprio cosa pensare, perché io...» Crader mosse appena un dito delle mani che teneva giunte sulla scrivania. Il commendatore parlò più lentamente. «Lei ce l'ha un passatempo, Antonio.» «Come? Che cos'ho?» «Lei, dopo che ha lavorato al forno, che fa?» Io vado al caffè Turchini e vedo degli amici, magari giochiamo a carte. Ecco, visto Antonio, il suo passatempo è giocare a carte con gli amici. Io ne ho un altro di passatempo. Io scavo dentro la gente. Antonio pensò, questo è matto. Come faccio a tornare a casa da Milano? Io scavo nella vita delle persone, riprese il commendatore. Serio, quasi severo. Vado fino in fondo e conosco tutto fin nei minimi dettagli. Scopro tutto di loro, fin quello che loro stessi non sanno ancora o non ricordano più. Vuol dire che... Ma che gente? Parenti, amici, i suoi dipendenti? Il commendatore sorrise. No, sa cosa faccio? Prendo a caso un elenco telefonico di una provincia d'Italia. Apro a caso, butto un dito. Trovo l'uomo ed è quello il mio oggetto di studio. E lei ha fatto così anche con me? Sì, Antonio. Ho trovato a caso Musca Antonio, panettiere di San Leo. Ho mandato i miei collaboratori a fare ricerche su di lei. Ma io non ho visto nessuno. Non ho parlato con nessuno e nessuno mi ha detto niente. Infatti, io faccio svolgere ricerche segretissime e minuziosissime. Io so tutto di lei. Tutto, tutto. Aprì un cassetto dalla scrivania. Estrasse un fascicolo grosso come una scatola da scarpe che posò sul tavolo. Guardi, qui dentro c'è tutto lei, Antonio. Dalla nascita, anzi da prima, perché ci sono i suoi genitori e c'è tutta la sua vita, ma proprio tutta. Le cose belle e le cose brutte. Cradar sembrò avere un'espressione soddisfatta. Antonio guardò il fascicolo e domandò: ma perché lo fa? Gliel'ho detto, è il mio passatempo. Grazie a Dio ho i mezzi per permettermelo. E non vado a spese, sa? Pensi che per avere le confidenze di certi suoi amici ho dovuto spendere fino a 300.000 lire? E cosa le hanno raccontato di me? Tutto, le dico, tutto. Fin da quando marinava la scuola, fin da quando era garzone del fornaio Bortoli, poi il fidanzamento con la Rosa, che poverina morì di peritonite, poi il servizio militare a Caserta, poi il matrimonio con l'Antonietta. Pensi, conosco perfino quella storia poco piacevole di debiti, ma non gliela voglio ricordare. Debiti, fece Antonio, col farmacista Carli, che le prestò 1.000 lire, poi litigaste. Ah, sì, Carli, è roba vecchia. Già, vedi Antonio, io sono il suo miglior biografo. Cosa vuol dire? Che potrei scrivere la sua vita tutta intera. Ma cosa può interessare a un gran signore la vita di un disgraziato come me? Gliel'ho detto, è il mio passatempo. C'è gente che legge i romanzi, ma sono solo storie inventate. Io sono uno che bada al sodo. A me piacciono le storie vere. Mi piace conoscere tutto di persone che stanno a centinaia di chilometri da me. Io pesco un nome e di quel nome voglio scoprire tutta l'esistenza. Nessuno ha segreti per me. Se voglio sapere tutto, io pago quello che c'è da pagare, ma vado fino a dove non arrivano i carabinieri, eh? Scopro le magagne segrete, i peccati grandi e piccoli, le cose belle e quelle vergognose. I miei romanzi sono persone in carne e ossa. Siete voi. Antonio vide gli occhi stretti e fermi di quell'uomo. Non gli piacquero. E lei fa venire a Milano tutti quelli che studia? Domandò. No, ho chiamato solo lei da quando ho questo passatempo, e sono anni. Perché io? Il commendatore premette un pulsante e si aprì in silenzio una porta scomparsa. Apparve un cameriere che accennò ad un inchino. Vuole niente, Antonio? Un caffè? Un brandy? No, grazie. Cradar mosse la mano, il cameriere sparì. Vedi, Antonio, io in tutti questi anni ho sempre trovato quello che cercavo. Non ci sono mai stati segreti per me. Pensi che una volta mi sono fatto raccontare da un prete quello che un tale gli aveva detto in confessione. Mi è costato 2 milioncini tondi, ma ho saputo quello che volevo sapere. Capito? Le dico che non ho mai dovuto tenermi una curiosità. Padri, madri, figli, moglie, mariti, fratelli, tutti, insomma, mi hanno detto tutto di tutti. Io chiedevo il prezzo e loro dicevano. E così io ho saputo segreti che nemmeno puoi immaginare. Per me non è questione di soldi, che grazie a Dio non mi mancano. Per me è una missione, un puntiglio, lo chiami come vuole, io non sopporto di avere zone vuote nei miei fascicoli. Se mi occupo di uno, io devo sapere tutto di lui, e in particolare voglio sapere quello che nessun altro potrà sapere mai. Glielo ripeto, è il mio passatempo, e ci spendo quello che voglio. In fondo c'è gente che spende i soldi alle partite o per il giardinaggio, non trova? Sì, ecco, io spendo per il mio passatempo, e che se vogliamo è anche una cosa seria, perché mi interesso delle persone, mi avvicino alle loro piccole storie di umili. È una cosa bella, no? Sì, e questo glielo dico perché sia chiaro che non è questione di soldi. Quello che lei mi chiede, io lo pago. Ma cosa vuole? Esclamò Antonio, che non badò a tenere bassa la voce. Antonio, io ho saputo che nel 1951 il commendatore prese un foglio dall'incartamento sulla scrivania, lesse nel marzo del 1951. Sua moglie ha abortito. Però non ho potuto sapere niente sulla causa di questo aborto. Ecco, Antonio, io vorrei sapere perché sua moglie ha abortito. Cos'è successo? Una disgrazia? O un aborto procurato? O un figlio della colpa? Mi manca solo questo tassello in tutta la sua storia. E io non ci posso restare con questa curiosità. Mi racconti di questo aborto. Mi dica tutto. Mi dica quello che le devo per il disturbo, perché forse le farà dispiacere ricordare quell'episodio. Ma lei sa che i soldi non sono un problema. Antonio guardò la testa dell'uomo che stava seduto davanti a lui. Il cranio calvo e lucido. Aveva l'aspetto dell'uovo di un uccello tropicale, con ponfi rossastri e chiazze quasi ocra. La luce attraversava la cartilagine delle orecchie, ed il colore che così avevano ricordava ad Antonio carni di conigli spellati. Antonio fece... Ma... E sembrava un verso di animale. Nemmeno una parola uscita dalla bocca d'un uomo. Cradar sorrideva e aspettava. Antonio fece ancora... Ma... Io... Il commendatore sorrideva sempre, ma qualcosa della sua faccia rivelava una certa stizza. Così perdono la pazienza i ricchi, pensò Antonio, che fissava gli occhi fermi dell'altro, le tre grinze parallele che segnavano la fronte come tre crepe in un muro. Allora, Antonio, esclamò Cradar quasi festoso, ma si sentiva che non era abituato ad aspettare così a lungo. Cosa c'è? Non ricorda? Eh? O pensa alla cifra? E rise a bocca aperta, spingendosi all'indietro, avvolto dall'enorme schienale di cuoio morbido della poltrona. Ma io vedo, non saprei che cosa devo dire. Il commendatore balzò in avanti, forse spinto dal molleggio segreto della grossa poltrona. Rise, ma non c'era nulla di lieto o amichevole in lui. Oilà, signor Antonio, ma è così che lei vende il pane a San Leo? Eh? Così poco sveglio, diciamo? Via, signor Antonio, non ha capito. Devo ripetere la domanda. No, quella lo capite. È che Cradar aveva adesso un mezzo ghigno. Non tentava neppure più di sembrare sorridente. Allora, incalzava. Allora, via, diciamolo questa cifra. Si vergogna? Guardi che siamo solo io e lei e non lo saprà mica nessuno. Antonio alzò un po' lo sguardo e vide la faccia del commendatore. I suoi occhi erano come quelli dei serpenti tropicali che aveva visto in un film di Tarzan. Erano mostruosi perché erano occhi che avevano guardato solo bestie spaventate, bestie che cercavano di fuggire e vivere. Antonio trovò il coraggio di alzarsi. Cradar lo osservò basito, come se il panettiere avesse preso fuoco all'istante, lì davanti a lui. Mi lasci stare, disse Antonio. Aveva la voce stanca, sembrava un vecchio. Non voglio niente. Mi lasci stare. Buongiorno. Cradar non disse nulla. Rimase a guardare l'uomo che usciva dalla stanza. Lo guardava con occhi terrorizzati. Thank you. Radioazioni. Contributi audio da Cosenza e dal mondo. Ogni domenica alle 16 su Radio Ciroma 105.7. Materia sonora, cura.